essere bello girare su quelle macchine americane, un po' scassate, decappottate, molto molleggiate. Deve essere bello sotto il sole della costiera amalfitana, seguire le strisce sempre dritte di una strada ignota e strana, e poi fermarsi lì a bere qualcosa che placchi la sete, chiedersi come mai, chiedersi come mai faccio fatica a sognare, chiedersi come mai questo confine, sai, faccio fatica a saltare. E vedere lì sul banco una bottiglia di salaparuta, formaggio fresco e cominciare a bere per il piacere di bere, mentre una mosca rincorre un po' stanca le pale di un ventilatore, chiedersi a questo mondo in fondo cosa ci stiamo a fare, e poi fermarsi lì a guardare le vene sbiadite di un tavolo stinto, e chiedersi come mai, chiedersi come mai faccio fatica a sognare, e chiedersi come mai questo confine, sai, io non riesco a passare. Riprendere il volante di questa ritmo dell'81 lungo il verde di questa costiera che non la mettono mai nei film, come il colore dei tuoi occhi quando mi stringe sarei da ammazzare, come quando non capisci che non ho più niente da spiegare, e chiedersi come mai, chiedersi come mai è così bello sognare, e chiedersi come mai questo confine, sai, io non riesco a passare. Anche in questa città